Natale di Alessandro Milan con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Non so se mi spiego, arriva Natale, uno diventa un po' più buono, più tenero, più speranzoso, soprattutto ha un sogno, dice, almeno il giorno di Natale, nei giorni di Natale, i funamboli non romperanno le scatole. Invece no, cari amici di Radio 24, eccoci qui, Veronica, buongiorno. Ma stai scherzando? Pensavano di liberarsi di noi per le feste natalizie. Oh no! Eh no. Siamo qui con uno speciale dei funamboli. Sì, diciamo con... anche... Oddio, c'è anche Manera. Diciamo anche che siamo qui perché a casa non abbiamo nessuno. Esatto. Quindi, non avendo nessuno con cui consumare cene e pranzi natalizi, siamo qui solo noi con Peter Bescapè in regia. Abbiamo deciso di consolarci tra di noi e ce ne stiamo qui così. È bello che Leonardo Manera ci accolga con la sua solita allegria, gaiezza, gioia di vivere. Per dare un po' di atmosfera natalizia, questo no è il mood più giusto. Allora, invece vogliamo augurare un buon Natale, felice, sereno a tutti, pieno di gioia e di buoni sentimenti, siete d'accordo? Signori, ma certo, vi terremo compagnia nella prossima ora perché è uno speciale dei funamboli e quindi non vi abbandoneremo. È Natale. Allora io vorrei subito cominciare per creare un momento di buon umore, cari Alessandro e Veronica, con delle battute che trago direttamente dall'enciclopedia delle battute e anche le formiche nel loro piccolo si incazzano di Gino Michelsi, che raccolgono una serie di battute su svariati argomenti. In questo caso ho selezionato alcune che riguardano proprio il Natale. Per esempio, chi è il Papa? È l'unico vice di una società che non vede mai il proprio capo, neanche a Natale. Si capisce, sì. Sì, direi no, di ma sì. Non spiegarla però. No, per carità, solo quello. Il prezzo dei regali di Natale è inaudito. Ricordo un Natale di tanti anni fa, quando mio figlio era piccolo. Gli ho comprato un carro armato giocattolo. Costava circa $100, una bella cifra per l'epoca. Era un tipo di carro armato in cui si poteva entrare, che si poteva guidare. Lui invece giocò con la scatola della confezione. Mi ha insegnato una lezione molto importante. L'anno successivo lui si beccò la scatola e io un whisky da $100. È talmente avaro che il giorno di Natale augura a tutti buon 25 dicembre. Questa non è molto bella. Perché praticamente per non dire Natale, per non fare i regali... No, la sta spiegando. Sì, l'ha sì, fatto, ufficiale. L'ha fatto. Lo spiega, purtroppo, la spiega. Purtroppo accade anche di questo. Allora, seguite... Non solo la battuta, sì, ma la spiegazione della battuta. Seguite un attimo il labiale di Manera, lo vuoi rispiegare meglio? Allora è talmente avaro che il giorno di Natale augura auguri a tutti buon 25 dicembre. Questa battuta è di Ennio Cavalli, che io non conosco. Ennio Cavalli. Ma ha fatto una battuta così. Era folgorante. Volete che vada a verificare chi è Ennio Cavalli? No. Ti prego, su Google, dai. Non prego. È una grande battuta di Natale, però comunque diamola un buon Natale. Ridilla per la terza volta, che magari viene apprezzata di più. Adesso una di questo Joe Claro, che deve essere un comico americano famoso. Perché Natale è come un giorno in ufficio? Perché tu fai tutto il lavoro e il ciccione col vestito si prende tutto il merito. Questa è più bella. È bello perché ci chiede notizie sul mondo della comicità e noi dovremmo essere chiedono gli io ho guardato chi è Ennio Cavalli, però non credo sia risolutivo. No. Chiede il giornalista italiano di Forlì, nato nel 1947, premio Campiello. Beh, non saprei. Campiello. Battuta di Rodney Dangerfield, un comico americano, questo? Ancora. Suppongo. Da bambino era dura. A Natale mi regalavano delle batterie con la scritta giocattolo non incluso. Questa è bellina. Ma perché è amara come te? Adesso una di Roberto Gavelli. Roberto Gavelli è un autore, diciamo, ecco, un autore comico. Faccio l'amore tutti i santi giorni, Natale e Pasqua. Hai capito, Alessandro? L'ho capita. Ma spiegagliela però, Leo, perché non siamo sicuri. E perché i giorni santi proprio sono Natale e Pasqua, quindi si fa l'amore i santi giorni, che poi non sono gli unici, non è precisa come battuta. Se vuoi, questa non è una battuta, ma riguarda una mia vecchia fidanzata. Posso dirla? Sì. Non lo so, ragazzi. Era un periodo un po' di crisi. A un certo punto eravamo sotto Pasqua. E lei non voleva fare l'amore con me, eravamo un po' in difficoltà e addusse questa scusa dicendo: ma è venerdì santo. E io l'ho guardata e gli ho detto: sì, perché martedì grasso invece. Non ho capito perché voi lo facevate. Allora, te la spiego. Lei diceva in qualche modo che si astenevano e che era un po' un giorno così di digiuno per la santificazione. Lui diceva invece: sai che godimento nei giorni di festa. Me la sta spiegando. No, dopo ma non la spiegazione. Così. Ma non era così. No. Era che da un po' che non me la dava. Ha detto: beh, è venerdì santo. Non vedi, si può. Io già gli ho detto: sì, già, perché invece è martedì grasso, eh. Vedi perché i critici no, fanno molto lavoro sulle opere d'arte valorizzando ciò che valore non ha. Andiamo avanti. Come è andata a finire poi con questa ragazza? Ci siamo lasciati perché non si batteva. Volevo approfondire un po' la questione. È possibile approfondire? No, meglio di no, meglio di no. C'è allora, una storiaccia sotto. Vediamo questa di Jake LaMotta, che non è Jack. Non è Jack, è un altro Jake LaMotta. Allora, la mia famiglia era così povera che ogni Natale mio padre usciva di casa e sparava qualche colpo di pistola. Poi rientrava e ai noi ragazzi diceva che Babbo Natale si era suicidato. Hai capito? Perché praticamente andava fuori, cioè pum pum pum, e poi diceva ai figli cosa è successo, dice Babbo Natale. Secondo e fa, quindi fanno non... più ridere le spiegazioni. E così anche secondo me. Adesso infatti cambiamo il format, leggiamola al volo e poi ce la spieghi. Allora, una di un famoso autore che è mancato qualche anno fa, però è proprio stato un grande battutista, è Boris Macaresco. Boris Macaresco diceva: pensate ai regali dei re magi, l'oro va bene, ma l'incenso e la mirra è stato il primo esempio di quello che succede a Natale quando si aspetta l'ultimo minuto per fare un acquisto. Ne abbiamo ancora due, so che abbiamo tempo. Abbiamo tempo? In realtà no. Ah, siamo alla fine già. Però abbastanza. La vedi? Le ultime due rapidamente. No, mi fa fare il vigile anche il giorno di Natale. È terribile. Tu pensi sempre, capito? Un ruolo terribile il mio. Allora, se un genovese ha un amante, la lascia prima di Natale, così non deve farle il regalo, capito? Ma guarda, fino a Natale era perfetta, poi l'hai spiegata e è crollato. Ti faccio notare che non l'ho spiegata, ma è scritta nella battuta. Io l'ho messa proprio come se fosse una spiegazione. Bravo, per rendere l'hai più, fregato. Esatto, per rendere più accattivante la battuta. Allora, finisco con questa di Francesco Rizzuto, che è un comico palermitano, e quindi la dico anche come se fossi palermitana, con una perfetta cadenza palermitana. A Palermo per fare un buon Natale bisogna essere in 12 o più di 13. Un anno a casa eravamo in 13 e siccome porta sfiga mio padre si è alzato e ne ha ammazzato uno. Questo è di Francesco Rizzo. Vabbè. Non l'ho capita bene questa. No, meglio non spiegarla perché ci avventuriamo in un terreno un po' minato. Bene. Va bene. E allora, queste erano le battute con cui introdurre questa speciale di Natale. Benissimo. Vai. Allora, Leonardo, dopo queste battute andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi dopo ci rituffiamo nell'atmosfera natalizia. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh, sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. I funamboli di Natale. Canta anche a Natale. Il ritardo di quei 20 decimi decimi di secondo. Sì, però sei troppo severo, almeno a Natale questa cosa. Vedi che non dico. È un bacchettone, veramente troppo rigoroso Alessandro Milan come persona. Sempre, non mi fa mai giocare. Cantano tutti, i bambini possono fare quello che vogliono, a Natale posso cantare. Non ritrovo la tenerezza neanche a Natale, è una persona spiacevole. Sono spiacevole. È spiacevole, è spiacevole. Va bene, questo è lo speciale dei funamboli, siamo qui a Natale, ma sapete caro Leonardo, cara Veronica, che abbiamo anche invitato in nome della bontà, in nome dell'amicizia, in nome della fratellanza anche un nostro amico Rom, il nostro Ratko. Grazie. Finalmente un po' di solidarietà. Oh, questo è bello, mio cuore è felice questa cosa, grazie. Un Natale l'insegna dell'integrazione anche, no? Sì, tutto integrale, pane integrale, questo va bene. E sono felice, poi sono felice che avete detto anche che a casa vostra non c'è nessuno, siete tutti qua, perché se non c'è nessuno ci passa mio cugino, perché è giusto che ognuno. Ma dai, Ratko, no, però così i luoghi comuni a lasciare regali. Sempre siamo, pensiamo siamo sempre male, voi pensate sempre male, invece no, io sono felice. Io invece voglio ringraziare, perché ormai sono diversi anni che sto qua a Italia, per tutto quello che avete fatto per me, per tutto che avete fatto mia famiglia, per soprattutto il calore che mai mi avete fatto mancare, questo devo dire. Bene. Perché quattro volte mi avete bruciato baracca, dico, se non è calore questo. Ma pensa che io appena arrivato in Italia, dopo un poco, io pensavo che quella del dare fuoco abitazione era una vostra legge italiana. No, non beh, avete tante leggi, fate a cazzo le cane, una più, una meno. Questo sì, potrebbe avere un senso. Questa si capiva come legge, perché tu dici, tu fai un reato, allora io tu rubi, io do fuoco a casa. Allora tu sai che se rubi in Italia ti danno fuoco a casa, se rubi a Arabia ti tagliano mano, paese che vai, leggi che trovi, oh. Potrebbe essere un modo per disincentivare i furti. Detta sì, però, così ha un suo senso. È vero, però poi ho visto che non era proprio legge, no? Cioè, guarda Formigoni, ha rubato 6 milioni di euro. Cioè, non è che hanno dato fuoco a Palazzo di Regione Lombardia. capisci? Guarda quello che ha rubato Tanzi. Io ho fatto conti, mi è scaduto uno permesso di soggiorno per capire quanto aveva rubato lui. Ho detto, se io che ho rubato uno salame e ne ho dato fuoco al mio baracco, con quello che ha rubato Tanzi dovevano dare fuoco a Parma, provincia, Reggio Emilia, l'aspettava, fa culo. Invece no, vabbè, anche a Natale riusciamo a metterci nei guai. Delle polemiche, delle polemiche sterili. Polemiche sterili. Si vedrà, Formigoni, si vedrà. In base ai processi, mamma mia ragazzi. No, anche il giorno di Natale uno deve prendere le distanze dal mio amico Ratko. Ma lui era mesi che non si vedeva, e è tornato di nuovo fuori Formigoni. Non poteva andare in pensione. Non so, a stirare camicie che aveva. Allora, dai, la questione di identità diversa. Io invece vorrei dire che la mia vera identità, di identità di italiano, io la sentivo a Natale, proprio a Natale. Quando a casa si faceva il presepe, perché allora in Italia l'albero non lo faceva nessuno, neanche i giardinieri. Fare il presepe per chi è cattolico è il momento più alto, perché trionfa l'immagine di Dio. Gesù non è più un'entità astratta, ma ce l'hai lì, a portata di mangiatoio. Finalmente è una bella statuina di plastica made in Cina e simboleggia fino in fondo la tua fede. In Occidente si possono venerare le immagini, l'ha detto il congresso di Nicea del 787 d.C. Infatti io a casa ho un cavatappi con immagini votive, una bottiglietta di acqua di Lourdes con l'immagine della Madonna che mi ha portato mio zio di ritorno da un viaggio a Napoli, e una palla di vetro con Gesù bambino davanti al golfo di Napoli che mi ha portato sempre lo stesso zio di ritorno da un viaggio a Lourdes. Nella casa dei miei genitori invece c'era in cucina il quadretto di San Lorenzo morto sulla graticola, in camera mia acquerello di Santa Lucia con gli occhi sul vassoio, in camera dei miei genitori stampa della Vergine Maria riprodotta drammaticamente con 7 spade infilate nel cuore. La prima volta che mi sono confessato dietro la tenda pensavo di trovare Dario Argento. Però mi piaceva il presepe Natale perché era una cosa gioiosa. Io e mio fratello preparavamo la base con le cassette di frutta, mio padre andava a prendere il muschio e tornava dopo 5 ore, di cui mezz'ora passata a staccare il muschio e 4 ore e mezza al bar. Per anni ho pensato che il muschio di mio padre crescesse al bar, tra il flipper e il banco frigo. Mia madre preparava la farina per la nevicata finale fatta col colino, perché in Palestina in quel periodo si sa che nevica sempre. Poi finalmente Gesù nasce nella grotta e tutti per la gioia vanno verso di lui, ci va la pastorella con le oche, ci va il pescatore con la canna, e andando con la canna è il primo che vede la stella cometa, ci va il fabbro portandosi l'incudine e il martello perché non si fida a lasciarli nella bottega. Allora, anche allora c'era il problema della sicurezza. L'unica cosa da fare, secondo me, per rinvigorire la fede è attualizzare il presepe. Gesù non nasce più in una capanna, nasce in un capannone di periferia. E i fedeli arrivano da lui con la smart o con lo scooter. Al posto della pastorella c'è un precario col contratto in mano, poi c'è un commesso dell'ipercop. E al posto del fabbro c'è un leghista che sotto al cartello Betlemme scrive Betlem, senza E. C'è un esiliardo del traffico che dà le multe a quelli che parcheggiano il SUV sul marciapiede. Poi, se gennaio arrivano i re magi che al posto di oro, incenso e mirra regalano a Gesù un po' di gratta e vinci. E alla fine con l'elicottero arriva magari Berlusconi, si mette nella mangiatoia al posto del bambinello e racconta a tutti la parabola di Forza Italia che rinasce sempre. E per festeggiare si fa in TV un nuovo reality condotto da Maria De Filippi dal titolo Amici di Dio. Questo, secondo me, sarebbe un Natale un po' attualizzato. Addirittura. Hai capito? Amici di Dio, io lo farei un reality così. Allora, però, insieme al nostro amico Ratko, insieme al nostro Rom, abbiamo anche un altro ospite che è venuto a trovarci. Ma quanta gente c'è per questo Natale? Affollatissimo questo Natale. C'è Daniele Ceva, buongiorno. Eccoci qui, buongiorno a tutti. E buon Natale. Buon Daniele Natale. Ceva, che tra l'altro partecipò a un programma di Radio 24 insieme al sottoscritto qualche anno fa, 2-3 anni fa, che si chiamava Avanzi di Manera. Un fallimento totale. Il curriculum è già, cioè, ma già pericoloso. Sto cercando di dire a Manera cigoli, non ti devi spostare perché il ecco raggio cos'era, si sente questo tutto. Cigolio, sì. Io pensavo a una roba tipo il fantasma di Canter. Ecco, se la sedia cigola è colpa mia. Se è colpa sentite della cari ascoltatori un cigolio, non è il nonno che si sta approntando alla cena, al pranzo, eccetera, ma è Manera che cigola. Proprio non è sedia, proprio lui. È lui che cigola. Le sue ossa. Allora, noi abbiamo fatto questo programma insieme, si chiama Avanzi di Manera, e andava in onda però il sabato pomeriggio alle 2, quindi era anche un po'. Sta cercando delle scuse, è incredibile. Sta cercando delle scuse. Mette le mani indietro ormai, perché. Ma come passato. Mai è qui il nostro ospite Daniele Ceva? Per quale motivo? Di grazia. Non oltre lo so. Per motivi economici, perché ti diamo comunque ovvio, dei soldi. Quello lì è il primo, perché devo fare qualche regalo di Natale. Il Natale siamo tutti più buoni, o almeno così si dice, no? Però se noi guardiamo un po' nella storia, soprattutto da cosa deriva Natale? Da Gesù Bambino, che era il figlio di Dio, secondo quello che ci è stato detto, insegnato, e secondo quello che c'è scritto sulla Bibbia. Nella Bibbia, che però è la storia un po' di Dio, che era tutt'altro che buono. Infatti vorrei un attimo ritornare così a ricordare quello che è stato uno dei passaggi fondamentali della Bibbia, che è il diluvio universale. Cioè Dio, dopo un po' di tempo, vede che gli uomini, insomma, in seguito dopo la cacciata di Adamo ed Eva, poi ci fu, che ne so, Caino e Abele, Sodoma e Gomorra, insomma, la Bibbia cosa dice? Il Signore vide che la malvagità dell'uomo era grande sulla terra e che ogni progetto concepito dal suo cuore non era rivolto ad altro che al male tutto il giorno. Quindi cosa fa? Un cazziatone agli uomini? Gli manda una carestia, le cavallette, la siccità? No. Nella sua infinita bontà il Signore disse: io voglio cancellare dalla faccia della terra... Aveva questa voce Dio? No. Non mo- io anche voglio... R? Esatto, ma questa R qua, non lo sappiamo. Comunque, la Bibbia dice: io voglio cancellare dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, uomo e bestiame, e rettili e uccelli del cielo, poiché mi dispiace di averli fatti. Questa è la sua. E quindi cosa fa? Vuole annientare tutto, tranne una famiglia. Decide di salvare la famiglia di Noè e una serie di animali. E quindi c'era Noè, quest'uomo di 800 anni, 700, che a quei tempi avevano delle età pazzesche, no? Si incontravano, diciamo, ma quanti anni fai? Ma ne faccio 780, ma sai che ne dimostravi 650? Quindi chiama Noè, quindi Noè, poi era lì così tranquillo, dice: Noè, dimmi, sono qui. Scusami, pensavo fosse l'eco. Quindi Noè, cioè, ho deciso che farò piovere 40 giorni e 40 notti, allagherò tutto il mondo praticamente, tranne te e la tua famiglia. Anzi, io voglio che tu costruisca un'arca e che ci metta sopra a coppie tutti gli animali del mondo. Intanto dice: che cos'è un'arca? Dice: è come una barca ma senza la B. E questa è una delle battute migliori della Bibbia. Dello della speciale Bibbia. Natalizio intero, direi. Allora, cosa fa Noè? Chiama i figli e gli dice: ragazzi, dobbiamo costruire quest'arca, che è una barca senza la B, e fra su tutti gli animali. Ma pensate, Noè, che viveva in questo paesino, in Terra Santa, che non ha mai visto gli animali, non sa. Allora, come fare? Chiama i figli. cosa ci inventiamo? E i figli decidono di fare questa cosa. Loro erano un po' più svegli da quel punto di vista lì, decidono di andare in ogni luogo in cui ci sono degli animali, nei boschi, nella steppa, nella savana, mettono delle locandine con scritto martedì da Noè, crocchette gratis per tutti, ed ecco che arrivano tutti gli animali e salgono a coppie sull'arca, partono, piove, l'arca inizia a galleggiare su queste acque e vanno così verso il nulla, il non si sa, finché a un certo punto Noè cosa fa? Deve capire se ha smesso di piovere o meno, e dalla Bibbia capiamo che lui aveva fatto l'arca senza finestre, aveva fatto solo un piccolo buco da cui passava la colomba. Ma prima di arrivare alla colomba, Noè ha provato con degli altri animali. Lui era ignorante, non sapeva gli altri animali chi fossero, se sapessero nuotare o volare o che cosa. Allora inizia con un animale che passava esattamente dal buco, un futtucchione. Prende il futtucchione, che era un animale lungo, fatto tipo a serpente, lo infila in questo buco, esce, ma il futtucchione cade e annega. Infatti i futtucchioni non esistono. Ne provo un altro che era fatto più a vite, un cucciurlocchiolo, lo infila, lo avvita in questo buco, anche il cucciurlocchiolo annega, e infatti non ce l'abbiamo. E proseguono, pensate, per 150 giorni stanno ad un'altitudine, perché la Bibbia dice appunto le acque aumentarono sopra la terra, coprirono tutti i più alti monti che sono sotto tutto il cielo, di 15 cubiti di altezza. Io ho fatto due conti, se mi date il tempo, ho fatto due conti, 15 cubiti sono circa, per 45 centimetri al cubito ebraico, sono circa 6 metri e qualcosa. Il più alto monte è l'Everest, 8.848 metri. Insomma, questi sono stati per 150 giorni a 8.856 metri. E quindi dovevano essere morti, secondo la... Ma niente, vanno finché l'arca si arena sul monte Ararat, che è questo monte tutto ricoperto di erre, che è a circa 5.000 metri d'altitudine. Quando arrivano cosa fanno? Loro erano tutti un po' così in déshabillé, perché vivevano in Terra Santa dove faceva caldo, e per il freddo si fanno delle pellicce con un fucchiolo, e infatti anche il fucchiolo non sparisce. Ma cosa dice? Insomma, finalmente arrivano, tutti si salvano, lui si era fatto un mazzo così, lui e tutti i suoi figli e la famiglia, per salvare tutti questi animali e per ringraziare Dio. Che cos'è che fa Noè? Così c'è scritto sulla Bibbia: Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di volatili puri e offrì sacrifici sull'altare. Cioè, nonostante che li abbia salvati, è come se tu, non so, uscissi indenne da un incidente aereo ma venissi stirato dall'ambulanza. E questo, buon questo Natale, per dare una bella immagine natalizia a tutti. Grazie a Daniele Sceva. Allora Ratko ascoltava con entusiasmo. Sì, perché è un dubbio che ho sempre avuto, è se in quell'arca hanno mai portato una coppia di tarli. Credo di no. Facevano parte delle creature di Dio, però era problema. Era un piccolo problema. Sarebbe stato un piccolo problema. Sono sopravvissuti, quindi forse sì. Li ha messi in una scatoletta di alluminio. Non so se c'era l'alluminio. Sì, allora sì, credo di sì. Quello dei caramelle che avanzavano. Va bene, finisce la prima parte di questo speciale dei funamboli. Un attimo. E siamo ancora. Funamboli di Natale. When a saint marching in, is the wind a saint go marching in? Saints go marching in. Oh, well, when the saints go marching in, yes, well, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in your love when the saints. Thank you. We're gonna walk around all around, hold a speech to the glory, hallelujah, hallelujah. When the saints go marching in, yeah, now when the saints go marching in, ooh, the saints go marching in. L'atmosfera natalizia, Veronica. Stavo facendo una tombolata e mi avete interrotto, ve lo dico. Molto bene. Con i fagioli, segni i punti con i fagioli. Ho appena fatto quaterna con i fagioli sul numero. Sì, devo dire che questa è una delle più clamorose pecche di Veronica. Ama la tombola. Quello lo avete quando... scoperto nel corso della trasmissione, a un certo punto mi sono tradita. Ma conosci anche i significati dei vari numeri, tipo 77? Qualche tipo 77, le gambe delle donne? Sì, sì, sicuro. Ebbene sì. Quello lo ricordo anch'io, Mike Buongiorno. No, le 77. Gambe delle donne, io lo conosco. Conosciuto mai Buongiorno, tra l'altro. 90. Beh, 90, la paura classica. Su. Dai, mica adesso, di sui fondamentali. Cioè adesso hai fatto Google e non è che siccome tu hai fatto Google e c'hai i numeri davanti sai tutto. Senti, senti, bella bionda, la tombola l'ho inventata io, eh. Allora, dicevamo che c'è qui il nostro Rat col nostro amico Rom. Come direbbe Parenzo, amico Rom. Ti accoglierebbe così il nostro David Parenzo. Amico Rom, ma finalmente dici un po' che i Rom non sono come li descrivono tutti questi xenofobi. No, allora, ci sono tante cose, per esempio, quando dicono mandiamo a casa loro, per esempio, non sanno che maggior parte di noi siamo italiani. Tu trovi molti più italiani in un campo a Roma che se vai a un allenamento da Inter o da Milan. C'è poco da fare. Questo è vero. Questo è vero. E poi sono partite, per esempio, tutte leggende che sono vere. Per esempio, dicevano che gli zingari, che poi ci chiamavano zingari, no? Che è un eteronimo, una maniera brutta di chiamare, dicevano che avevano creato chiodi per croce di Cristo. Quindi già questo stavamo antipatici, capisci, no? E tutti i luoghi comuni che non sono veri, quello che dicono, per esempio, noi siamo sempre, ci chiamano nomadi, sono nomadi. Non è vero che siamo nomadi, questa è una cosa, non è vero che siamo nomadi. No? No, perché se ogni volta io trovo uno posto per stare tranquillo, arrivi tu, mi cacci via, non sono io nomade, sei tu stronzo. Questa è polemica sterile. Polemica sterile. Allora, Ratko, sei venuto a fare delle polemiche sterili. Allora io vado dove c'è stato del monumento dei Garibaldi e ogni... se era sposto di piaccia dice Garibaldi è diventato nomane, no, c'è una testa di cazzo che si diverte di notte a spostare stato. Poi non è vero che noi eravamo bambini, non è vero, anche questa è arrivata da una leggenda perché c'era una opera dove questa zingara prendeva questo bambino, ma non è vero che noi eravamo bambini, questo è vero, non esiste notizia accettata. Ma no, hanno, c'è stato, guarda, Università di Verona hanno fatto uno studio di 20 anni e hanno visto che ogni volta che dicevano che Masmin dicevano che avevano rubato uno bambino, poi andavano in commissariato a vedere, non c'è stata una volta è che vero, era vero. E come mai si è diffusa questa diceria? Ma sono tante dicerie che si dicono così, no? Perché mettere a cattiva luce gente che... Ah, per carbone di non è che siamo invece tutti... per darle sono appunto le... questo microfono! Ma scusa, sono so le leggende voi... metropolitane. Non so se voi siete mai stati in un campo Rom. Però la prima cosa che ti corrono incontro sono bambini. Siamo pieni di bambini. Io ho 12 figli, Mila. Ma secondo te sono così cretino da rubare ancora? Non so neanche come mantenere quei 12. Che cazzo vado a fare ancora? Come li mantiene? Li mando a lavorare. No, scherzo, dai, uno scherzo. No, però si dice che rubano i Rom. Un pochino. Posso dire, ci sono quelli che rubano, però quelli che rubano, io sono di quelli di cui vado più fiero, perché se rubano vuol dire che si sono integrati bene. Questa di una sterilità questa proprio veramente vergognosa. Questa è la sterilità. Ma lei ruba Ratko? Io non rubo, io a diciamo quelli che rubano che, per lei. No, diciamo che io trovo cose prima che uno perda, che è una situazione un po'. Ratko, ma lei è specializzato, cioè c'è proprio qualche cosa che ruba più volentieri con cui si trova meglio oppure sì, c'è io, che non ruba. Io rubo cuori, l'indirizzo vengo anche di te. Ma io non rubo niente. Lui ma figurati, diversamente trova. Ecco. Poi c'è qualche ruba, c'è, ma come dappertutto, anche se ti dicevo. Ma sono questi luoghi comuni che dicono su di noi che non sono vero. Poi dicono, per esempio, che puzziamo, ce l'abbiamo. È vero, c'è gente che puzza, ma sai, tu quando metti 400 persone con uno cesso solo è normale che senti odore, no? Certo. Ma sai che questa è una storia vera, che poi pare che dico cagazzi, ma sono storie vere. C'è stato uno, signore, non poteva più, 400 persone in un cesso solo, ha preso con sui soldi, si è costruito un cesso. è stato denunciato per abuso edilizio. In Italia! In Italia. Ma però puoi stare tranquillo perché non verrà poi tolto. Quindi no, però gli abusi edilizi ci sono, sì, ma non vengono smantellati. Perché è uno povero zingaro. Fatelo sanare da un se era uno vostro politico, poteva dire: no, guarda, veramente io sono andato a cagare in campo, hanno costruito un cesto mia insaputa e non mi sono neanche. Certo. Poteva anche lì vi dovete integrare meglio, lo vedi che non vi siete integrati. Ancora no, ci manca ancora, non siamo ancora a vostro livello. Vabbè, Ratko, ci sono altri luoghi comuni, ce ne vuole dire dopo. Non lo so. Vabbè, questi sono i più importanti. Ma diciamo che io non sono completamente d'accordo con quello che ha detto il signor Ratko. È arrivato Peter. No, mi spiace trovarmi qui di fronte, diciamo, in una trasmissione molto dalla parte dei Roms. Buonista. Sì, molto buonista, perché io invece vengo from dalla provincia di Brescia. Peter, scusi, ma lei from nella provincia di Brescia non aveva da fare il giorno di Natale? Venuto a contrastare questo buonismo che è qui imperante a Radio 24. Allora sei un populista. No, io non condivido questo buonismo che viene continuamente manifestato dal perché? Signor... Perché è buonista? Ma no, voi siete un po' buonisti, la signora Gentile. Ma onesta. Gentili? Sì, ma... quella... quella. Ma perché? Solo perché abbiamo ospitato un Rom? Ma sì, scusi, cioè, ma... la festa a tradizione cristiana, cosa fai? Vai a ospitarmi uno dei Roms? Cioè, sono... No, i Roms che è un gruppo musicale? Sono fondamentalmente contrario. Già lui con i gruppi musicali, perché viene da... c'è un gruppo musicale anche lui a Parpo. Sì, noi c'è questa cittadina che si chiama Parpo e abbiamo un gruppo musicale che si chiama i Di Parpo. Beh, non male, non male. Non questa è la disperazione natalizia che mi fa. Vabbè, Peter è venuto da, è venuto da Parpo fino a qui per dirci solo questa cosa del buonismo. No, per dire che insomma io ci tengo alle tradizioni. Perché abito in questa piccola cittadina, provincia di Brescia, si chiama Parpo, dove non succede mai niente, perché il posto è piccolo, no? Certo. Diciamo che da noi quando c'è un funerale è già un'occasione di svago. Infatti l'agenzia di pompe funebri come slogan sulla sua porta ha fatto scrivere: morendo fai vivere la tua città. E diciamo che da noi non succede niente, a noi la gente o va a messa o va al bar, perciò il prete Don Gianni, per arginare il fenomeno dell'alcolismo, celebra 45 messe al giorno. Solo che a forza di bere il vino dell'Eucaristia è diventato alcolista anche lui, perciò adesso celebra la messa direttamente al bar. Infatti Don Gianni ultimamente lo chiamiamo Don Perignon, diciamo. Allora... siccome non succede mai niente, ogni settimana andiamo a fare un giro a Brescia, di Big City, con i miei amici. Questa settimana sono andato con i miei amici, per esempio, Herpes e Alfio Alfiere, sono soprannomi. Alfio lo chiama Alfiere perché si chiama Alfio, ma gli piace molto bere, perciò dopo aver bevuto si muove solo in diagonale, qui Alfio l'Alfiere, diciamo come l'Alfiere degli scacchi. Degli no? scacchi, certo. A volte con noi viene anche Rovagnati. Sì, che lo chiamiamo così perché lui dice che sotto ha un gran biscotto, anche se ultimamente non ci accompagna più perché si è fidanzato con una ragazza soprannominata Fiesta Snack. Perché per andare a letto con lei non ci devi vedere più della fame. Va bene. Buon Natale a tutti, ma buon Natale a tutti, signore. E diciamo che andiamo sempre in giro in tre, signora Gentile, perché se vai in esatto, se vai quella lì. Sì, sì, ma Gentile, sempre quella, sempre quella lì, dai. Lo so. Se vai in giro da solo la donna pensa che sei uno sfigato. Se vai in giro in due la donna pensa che siete due gays. Se vai in giro in tre la donna non sa cosa pensare, si incuriosisce e si avvicina. Anche se di solito pensa che siamo due gay o sei uno sfigato. Ecco appunto. E dice anche che andiamo sempre in giro in tre perché almeno sabato sera due possono ubriacarsi, uno rimane sobrio, guida al ritorno. Solo che purtroppo sabato scorso l'unico che non ha bevuto è Herpes, che è l'unico che non ha la patente. Ci hanno anche fermato i carabinieri perché stavamo... Sì, che non ha la patente, ci hanno fermato. I carabinieri hanno detto: perché state procedendo con le quattro frecce lampeggianti accese? Herpes ha risposto: perché così in qualsiasi momento possiamo girare sia a destra che a sinistra. Allora, intelligente questo. Carabinieri prima ci hanno guardato male, poi hanno detto: è giusto. Poi hanno detto: Herpes, favorisca la patente. Siccome lui non ce l'aveva, gli hanno fatto domande in teoria per vedere se aveva meno infarinatura. Gli hanno chiesto: cosa serve la frizione? Lui ha risposto: a rinforzare i capelli. Carabinieri hanno detto: è giusto. Beh, formalmente, effettivamente. Ci hanno lasciati andare, siamo andati alla discoteca Madison, lì a Brescia, Big City. Era prevista una serata con le ex letterine di passaparola, perciò per entrare c'era selection all'ingresso, dove rispondere alle domande, the questions, tipo passaparola. Bello. A me hanno chiesto, per esempio, chi passò le Alpi con gli elefanti? Io ho risposto: Moira Orfei. Ma no. A Herpes hanno chiesto una domanda di storia: chi fu il successore di Costantino? Lui ha risposto: Daniele Interrante. E invece Alfio Alfiera ha chiesto come si chiamano gli abitanti dell'isola di Pasqua. Lui ha risposto: Kinder Sorpresa. Ma... quello che faceva selection all'ingresso era un ex carabiniere, ha detto: è giusto. Ci ha fatto entrare. Salutiamo i carabinieri, eh? E diciamo che il appena servizio. Dentro la discoteca, signor Milan, sì. Ognuno ci ha provato con le ragazze con la sua tecnica. Io ci ho provato con una ragazza con un approccio di tipo fiabesco. Mi sono avvicinato a lei, ho detto: sono il tuo genio, the genius of the lamp, genio della lampada. Esprimi i tre desideri. Lei mi ha detto: non voglio più vederti né adesso né in futuro né mai più. Siamo tornati a casa alle 5 di mattina senza aver combinato niente, col sorriso sulle labbra, la morte nel cuore e il funerale nelle mutande. Però così è la vita, se piace piace, se non piace Piacenza. Eccolo. Buon Natale a tutti. Da Peter, from Peter, Peter bene, from, bene. From Purple. Peter from Purple. Ma perché non ce lo fa tutto in inglese una volta? No, diciamo che cerco di essere anche un po' international, no? Questa non so, per esempio, magari vi vedete un pomeriggio e ve lo fa tutto in inglese, esatto. Che dici? Invece, ecco, una cosa che non abbiamo approfondito prima, ma Daniele diceva: ma che lingua parlavano all'epoca? Una lingua strana, forse, chi lo sa? L'aramaico antico, che però ai tempi non era antico, era solo aramaico. Era solo il famoso aramaico antico. Si chiamava tra l'altro aramaico perché? Perché era, no, non perché c'è un motivo. Non... qual è il paese da cui originano gli aramaici? L'Aramia Saudita. Aspettate che io sto andando a googolare, aramaico. Attenzione, aramaico, no, facciamo una bella figura noi giornalisti. Va bene. Aramaico, l'alfabeto aramaico è un abjad, un alfabeto consonantico usato per la scrittura delle lingue aramaica, ebraica, siriaca e mandaica. Beh, va bene. Già e quelle parti lì, insomma, Montesinari. A 3000 anni di storia, volevo dirvi anche. Certo. Non so se tutto finiva con aico. Aico, era tutto aico, una zona dell'aica. Va bene, ma comunque vogliamo sapere, visto che siamo... sapere che quando Alessandro mi la fa vuol dire che la cosa l'ha lasciato perplesso. No, è che allora io sto cercando di spiegare a Leonardo Manera e Veronica Gentili da mesi, mentre Manera cigola, che ci sono dei tempi in radio, ma i tempi comunque, ecco, che noi siamo così, la prendiamo freccattoni un po'. Io capito, volevo dire a Peter, che era prima, che esistono anche dei rom che sono leghisti, gente non sa, ma esistono. Sì, sono quelli che si sgomberano da solo ogni mattina. Così, quelli sono i supernomadi. Super. I supernomadi, va bene. Allora, dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi l'ultima parte di questo speciale dei funamboli. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo, tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018 con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. I funamboli di Natale. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, a new one just begun. Meno male che abbiamo scelto una versione diversa di questa canzone, che passerà 4000 volte in tutte le radio del mondo ogni giorno di questi giorni. Questa è molto bella, però. Sì, la versione è molto chissà quanto bella. Prende di SIAE. Di chi è questa canzone? Maroon 5. Dai, questa John è la versione Lennon. Di Maroon 5. John Lennon! Non lo so, io non conosco. Chi è John Lennon? John Lennon era... non mi ricordo. In aramaico. Era una parola aramaica. John Lennon. Stai googlando? Viene da Parpo. Stai googlando? Aspetta, prova a googlare un attimo. John Lennon con due N in mezzo e poi una N. Una sola alla fine? Sì, una. John Lennon. Aspetta. Beh, noi abbiamo comunque... cantava anche in un gruppo. John Winston Ono Lennon, Liverpool, 9 ottobre 1940, quello sì. Lì? Sì, di Liverpool, dici? Mi sembra. Sì. Cantautore può essere? Ma non l'ho mai sentito nominare. Paroliere. Polistrumentista. Il mogol di Liverpool, praticamente. Ma io non. Dal 62 al 70 fu compositore e cantante del gruppo musicale dei. Non so neanche come si legge questo. Beatles. Sei di Purple. Comunque vi faccio notare che qui a Radio 24 abbiamo un Natale veramente eterogeneo, no? Con persone che vengono da varie parti d'Italia, come del mondo, Roma, Milano, Roma, non sappiamo di vengo dove. Vengo da Bar, no Bar qua sotto, Bar, città di Montenegro. Valenza è un posto. Una volta era Valenza Po. Valenza Po. Poi hanno tolto Po. Perché non c'è più il Po. No, c'è ancora il Po, ma non e poi è più c'è il Po, insomma la Repubblica Sociale di Salò. Anche. Va bene, dai, Daniele Sceva, dei consigli per tutti gli anziani che in questi giorni vogliono mettersi un po' davanti a uno schermo. Sì, perché insomma io... Allora, guardi, a me mi piace, ecco, andare a Natale al cinema. Sì. Se lei mi dà un bel consiglio, che posso andare al cinema, una cosa anche un po' piccante da vedere, noi soliti cinepanettoni. Ma, noi abbiamo dei cinepanettoni. Una cosa interessante. Dei cinepanettoni che invece dei canditi c'è il peperoncino. Allora, caro, cos'è caro... che posso andare a vedere? Allora, guarda, noi abbiamo dei film consigliabili, molto bene, proprio per gli anziani. Sono ideali per portare il vostro nonno, allora, o il vostro papà, qualora voi abbiate già un'età per cui il vostro papà è nella terza età. Tipo, abbiamo un film un po' erotico. Allora, questo mi interessa, ecco, cos'è che posso andare a vedere? 100 colpi di tosse prima di andare a dormire, che è un film erotico per anziani. Poi abbiamo un altro meraviglioso, più per le donne, più per chi ama così. Veronica, non sei anziana, ma no, ecco, un po' più romantico. Dicevo per tua zia. Cerca di non essere maleducato, No. Poi se sono anziana io, tu. Meglio. Un po' più romantico, così per allietare il Natale del signore, più che altro, che è Profumo di nonna. Molto bello, romantico, c'è una storia avvincente, insomma, questi due che chissà se ce la faranno arrivare fino alla fine del film. E poi l'ultimo, per chi vuole un po' gli anziani che vogliono azione, tipo Manera, Asma Letale. Asma Letale. Tiene un po' tutti col fiato sospeso. Io penso sospeso. Che potremmo chiuderlo qui, questo speciale natalizio. Dopo Asma Letale direi che siamo arrivati alla fine. Io devo andarmi a vedere Profumo di nonna, quindi c'è un attimo da fare. Scusate. Profumo di nonna. Io penso che con questo Asma Letale abbiamo dato una mazzata finale a Radio 24. Sì. Profumo di nonna, se posso dare questa informazione, è tra l'altro il primo tentativo di Odorama. Cioè nel cinema verranno anche, si dopo sentiranno questa... anche proprio i profumi degli ambienti e delle persone che vediamo nel film. Accidenti. Beh, ragazzi, gustoso il tutto. No, ci sono cose più gustose di questi giorni, e cioè i pranzi. Oh, no, i pranzi. Allora, sì, il nostro Leonardo Manera ha voluto fare il nostro giornalista d'assalto. Sì, andando... io ogni tanto vado qui a Milano in corso Buenos Aires a sentire un po' il parere delle persone. Sentiamo allora che cosa ne pensano di questi momenti conviviali tra parenti. Secondo lei il Natale coi parenti è bello o è una seccatura? Devo dire proprio quello che penso. È una seccatura? No, è bello. Il Natale coi parenti è bello o è una seccatura? Non arriva Natale, no. No, è per sapere, insomma, se lei trova, le piace vedersi con tutti i parenti oppure ogni anno è sempre più... Io non ho tutti i parenti, io ho un bel gruppo mio. Di nipoti, tutti i nipoti? Due figli, cinque nipoti, due pronipoti. E cucina lei? No, mi aiutano, dai, io faccio le verdure un po'. Poi le cose meno pesanti, però quando li vede arrivare dice che seccatura, me li trovo ancora qui questi. No, perché vuol farmi... Li odia, no, non li può vedere i suoi nipoti. Non conosco lei. Che e farebbe volentieri a meno, si è pentita di aver fatto i figli per aver poi i nipoti in mezzo a... No, guai, sono 30 anni che sono sola, dai. Ha già preso i regali per i nipoti? Adesso vado a prendere un petto di pollo per farlo a un nipote che lo vuole. E basta. A Natale sei contento di continuare a stare con la moglie o vorresti liberarti? Sì. Anzi, siamo sempre divisi. Quindi vorresti... siete sempre divisi, come mai? Perché vivete... per lavoro. Lavoro. Quindi... Ecco perché è dura il nostro matrimonio. Perché non vi vedete mai? Perché ci vediamo poco. Avete anche rapporti sessuali con altre persone? No! Qualche volta è capitato. No, dai, ma piano. Con i caloriferi. Sì. Ti trovi meglio con lei o con un calorifero sessualmente? Ma il calorifero sta più zitto. Con famiglia. Con famiglia. Cioè? In che senso? Problemi con famiglia. Tu hai problemi con famiglia? Sì, famiglia di merda. Famiglia, ce l'hai... di merda. Che qualcuno l'ha presa bene, in famiglia è molto allegra, grande armonia, collega del nostro amico Ratko, questo straniero insomma che in famiglia ha dei problemucci da risolvere. Noi in famiglia andiamo d'accordo, io e mia moglie ci chiamano, siamo due colombi. Sì. Ogni, sì, una volta volo io fuori dalla finestra, una volta lei, partiamo a pian terreno, dai, a turno. Va bene Ratko. Ma io invece sai cosa mi piace del vostro, io sono venuto qua per vostra lingua, perché io amo italiano, perché italiano è musica, è opera, è bello, è melodia pura, senti parlare, bello, mi vengono brividi, Io mai posso dimenticare la prima parola che mi hanno detto, proprio appena vaffanculo, torna al tuo paese. grazie, ma è perché è bello, io voglio che gente, sì, mi piace, sì. Vaffanculo, ti riempie bocca, è bella la lingua italiana, non è tedesco. Tedesco è dura come lingua, perché tedesco prima ti guarda in occhi, poi ti dici tu dici no, cosa ha combinato, cazzo, prego. Poi vai a fare traduzione, sai cosa vuole dire? Io ho una mela mangiato, fanculo, fanno prendere paura. Però sai qual è la differenza? Sai cosa fa tedesco? Cosa fa? Tedesco ti dice io ho una mela mangiato, perché lui il verbo mette in fine di frase. La costruzione verbale è questa. E tu fino a fine di frase non sai che cazzo ho fatto con questa mela. Ma tu la capisci? Suspense. Ma tu capisci che quello di mettere verbo a fine di frase è una costruzione grammaticale che possono fare solo tedeschi. Perché? Ma prova a andare da mie parti, prova a dire a uno, sai che ieri ho tua sorella, ma neanche non arrivi a dire incontrata, questa già te taglia gole due secondi. La questione è educazione, italiano è, italiano è bello, però non è sempre molto chiaro, perché non è facile per noi stranieri, per esempio carabinieri. Perché si fanno chiamare forze dell'ordine? Ogni volta che vengono a perquisire casa mia fanno uno casino, ma fa culo, prima era ordine. Forse qualche problemuccio ce l'ha. Ma no, cercano erba, non neanche giardino, ma che ne vedi che poi è normale che stanno... Forse siamo un po' troppo buonisti con lei, ma effettivamente a Natale. Tu è populista, non è buonista. Qualche fedina penale, forse dobbiamo controllarla. Guarda, prima lo inviti e poi fai così. Io posso dire che anche vostra lingua, guarda, questa estate per esempio, faceva uno caldo incredibile, allora ho pensato mi compro un bello ventilatore. No, una cosa così, non potevo permettere air condition, però ventilatore sì. Vado al negozio e vedo che signore che vendeva continuava a dicere a clienti che aveva là, fa prego signore, prenda questo modello, questo è ottimo, guardi questo va a Aruba. A un altro ha detto, quelli telefonini abbiamo venuti qua, sono andati tutti a Aruba in un giorno. Quello che viene prenotato e che andrà a Aruba è normale. Uno straniero pensa, ma devo essere io, povero cretino unico che paga in questo negozio. E c'è poi il giudice a processo mi ha spiegato come andava la cosa. Pure processi. È sempre un fraintendimento linguistico. Ma è normale. Cioè, nel finale ce lo dice. Ma perché così? Io non lo sapevo. Mi ha detto, guarda, è una maniera di dicere, non è una maniera di fare. Come quando si dice che va tutto a puttana e fai una maniera di dicere. Detto, insomma, certo. Vedendo che buon Natale sempre a tutti. Sai che queste povere lavorano anche a Natale. Tutti parlano dei centri commerciali aperti, ma nessuno parla di queste che devono lavorare a Natale, tutte feste comandate. È vero, possiamo farci una bella puntata anche ma sì, che dici? C'è gente che lavora, per esempio, che non c'entra niente, un'altra cosa che ha detto Papa Francesco, ha detto che non bisogna lavorare a domenica. Ma lui da quando che faceva prete che lavora ogni domenica ne ha saltata una, allora ma si dice fai quel che il prete dice, non fare quel che il prete fa. L'ho fatta, l'ho detta veramente, l'ha detta sembrava un assist perfetto. Va bene, insomma Ratko, noi la ringraziamo per essere venuta a trovarci qui, sa che noi facciamo uno speciale anche Capodanno il 31, se vuole venire a trovarci anche il 31. Ma sì, dai, se le facesse piacere. Ma sì, magari dai, porto 8-10 copertoni da bruciare, bruciamo qua dentro, facciamo una cosa bello, sì, ecco, mischiamo le tradizioni, le culture. Siete così? Sai che c'è? Io in nome del buonismo la inviterei anche al 31. Ma sì, anche secondo me. Vale, ha da fare? No, io non ho mai da fare. A svaligiare case? L'ho detto. Non può venire a Capodanno, in effetti. No. L'ho detta. Questi luoghi comuni. Hai visto, Veronica, che questo è il profondo dell'animo di Alessandro, sì, è così. Sì, no, ma io lo so che è così. Poi durante le feste gli si slatentizza, capito? Va bene, caro Leonardo, dai. Allora, io vorrei solo fare qualche augurio di Natale, se Peter Bescapè in regia mi fa partire una base sua dente adatta al Natale, atmosfera natalizia. Ce ne sono due, Peter Bescapè, mi metti quella allegra oppure l'altra. Questa. Buon Natale, tra l'altro è bello perché poi si torna a parlare con i parenti, magari anche per litigare, però insomma Natale ha questa caratteristica, non si parla più solo di soldi, i soldi servono prima per comprare i regali, ma poi a Natale si parla. E quindi buon Natale a quelli che fanno tanti chilometri per andare a trovare i parenti e poi litigano. Buon Natale a quelli che dicono che l'albero non è la vera tradizione cristiana e allora fanno il presepio con le statuine made in Cina. Buon Natale a quelli che tolgono i canditi dal panettone perché dicono che fanno ingrassare e poi sul panettone mettono mezzo chilo di mascarpone. Buon Natale a quelli che fanno la comunione solo a Natale perché dicono che a Natale la comunione vale di più. Buon Natale a quelli che a Natale si sentono soli, ma poi se qualcuno li va a trovare si scocciano, li mandano via, dicono che è rottura. E buon Natale ai single che sono stanchi di passare il Natale da soli, ai mariti che sono stanchi di passare il Natale con le mogli, alle mogli che sono stanche di passare il Natale con i mariti e con le suocere. E buon Natale alle suocere perché in fondo sono state bambine anche loro. Insomma, a tutti noi e a tutti voi, buon Natale. E allora noi... Adesso mi sono quasi commosso, vedi che l'animo viene fuori ogni tanto. Speriamo davvero di avervi tenuto compagnia in questi giorni. Non litigate troppo coi parenti a Natale, un pochino sì. Non litigate troppo, dai. Un pochino sì. Un pochino, il giusto, per è uscito la quaterna, la cinquina, io adesso 12, vado ad aprire i vostri regali che ho sotto l'albero. Grazie. E nel frattempo vado a rigiocare a tombola. Brava. Allora io voglio ricordare che il meglio dei funamboli torna mercoledì 27 dalle ore 9 puntuali e vogliamo ringraziare Daniele Ceva che è venuto a trovarci. Ma buon Natale a tutti e grazie a voi. E vogliamo ringraziare Luca Clobas. Grazie amici, Ratko. Sono felice. Felice. Come? Sto come uno topo in formaggio, non so dare Come uno topo in formaggio, è chiaro. Leonardo Manera, Veronica Gentili e il sottoscritto Alessandro Milan vi danno appuntamento alla prossima. State con noi su Radio 24.